Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Riunito il CDA di Volkswagen per scegliere il nuovo amministratore delegato, favorito Müller, ora alla guida di Porsche, Autobild chiarisce le notizie su BMW, non ci sono prove di manipolazione delle emissioni. Il discorso di ieri al congresso contro la pena di morte, il Papa è arrivato a New York, dove parlerà alle Nazioni Unite. Intanto il mondo si mobilita per un saudita che rischia di morire decapitato. Oggi il governo dovrebbe varare lo stop all'aumento delle accise sui carburanti. Intanto, secondo l'Istat, sono 4 milioni e mezzo i lavoratori con il contratto ancora non rinnovato. Il duplice omicidio dei fidanzati di Pordenone. Dopo 6 mesi c'è una pista, indagato un commilitone della vittima. Mondiale di rugby, l'Italia prova a restare in carreggiata. Domani il match col Canada, MotoGP, nelle libere Lorenzo davanti a Marquez e Rossi. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura dunque torniamo sul caso Volkswagen. Riunito il board dell'azienda per decidere chi sarà il prossimo amministratore delegato, mentre lo scandalo dei dati sulle emissioni e sui consumi truccati si allarga e si allargano le inchieste, tra l'altro. Abbiamo in diretta con noi Andrea Amalan del Sole 24 Ore. Andrea, di nuovo buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, sembra che il board sostanzialmente abbia quasi già deciso, insomma, l'amministratore, il nuovo amministratore delegato sarà Il numero uno di Porsche, no? Sì, dovrebbe essere Matthias Müller, il numero uno di Porsche, che è un manager che è nel gruppo da 40 anni, è considerato un fedelissimo delle famiglie Porsche e Piëch. E quindi è considerata questa sua nomina una vittoria del vecchio patriarca Ferdinand Piëch, che, lo ricordiamo, ad aprile si era dimesso dalla presidenza dopo uno scontro con lo stesso Winterkorn, quindi un ribaltamento del risultato. Più in generale, per quanto riguarda il futuro del gruppo, è una scelta di continuità, appunto, con un manager che indubbiamente ha avuto un grande successo con la Porsche, che ha risanato, che ha portato a essere una macchina da utili con un grandissimo successo commerciale in tutto il mondo, ma che non è la scelta di rottura che soprattutto molti analisti finanziari chiedevano per dare una svolta al gruppo. Vedremo comunque qual è il suo programma, come si presenterà e quali saranno le reazioni dei mercati nei prossimi giorni. Intanto in borsa oggi i titoli dell'auto vanno bene. Al di là del caso specifico di Volkswagen, mentre anche la Norvegia e l'India aprono delle inchieste, la Norvegia apre un'inchiesta per frode, si sta aprendo, Andrea, il problema più in generale di come funzionano i test di omologazione, tanto che l'Unione Europea promette una stretta. Siamo al di fuori dello scandalo Volkswagen, perché qualche dubbio sui test di omologazione delle auto c'era già, a prescindere da quella che è una truffa vera e propria che abbiamo visto. I dubbi c'erano da anni, sia da parte di associazioni ambientaliste che hanno portato numerosi test pratici per dimostrarlo, sia erano già arrivati a livello della Commissione UE. Di fatto la Commissione sta tentando da anni di implementare dei test più stringenti, cioè più aderenti in sostanza alle condizioni di guida reali, test ai quali, bisogna dirlo, le case hanno cercato sempre di fare resistenza per rinviarne l'introduzione. È una cosa che riguarda tutti i costruttori ed è una cosa che peraltro riguarda anche i motori a benzina e ibridi, cioè riguarda non solo le emissioni di ossidi di azoto, che sono quelle più dannose dei motori diesel, ma anche il CO2, quindi i consumi in generale. Ovviamente questo caso dovrebbe far accelerare l'introduzione dei test più stringenti e quindi permettere di verificare meglio se effettivamente tutti i progressi che negli ultimi 15 anni l'industria dell'auto ha vantato in termini di maggiore rispetto dell'ambiente sono veri o derivavano in gran parte da questi dallo sfruttamento legale di buchi nelle procedure di test. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore, come sempre, anche per la sua chiarezza. Ti auguro una buona giornata. Noi del caso Volkswagen torneremo poi più avanti a parlare nel corso della trasmissione alle 13.35. Siamo alla visita del Papa negli Stati Uniti. Ieri il forte appello contro la pena di morte davanti al Congresso degli Stati Uniti. Poi il Pontefice sarà a New York, dove in realtà è già atterrato, alle Nazioni Unite. È previsto che parli tra un paio d'ore. Il servizio. parla agli Stati Uniti come figlio del grande continente americano, tocca le corde profonde della politica ma anche della sensibilità popolare, facendo appello proprio alle radici della nazione e della democrazia americana, basate anzitutto sull'accoglienza. Francesco, con il discorso al Congresso, ha segnato un momento decisivo del suo pontificato, dove la pastorale del Papa, venuto dalla fine del mondo, si è trasformata in alta politica. Certamente gli Stati Uniti non aboliranno a breve la pena di morte perché lo chiede il Papa, e tantomeno cesseranno la vendita di armi nel mondo che alimentano le guerre, ma certamente l'appello del pontefice innescherà una riflessione dentro la classe dirigente che forse nel tempo contribuirà a produrre dei risultati. Ma quello che più ha colpito è stato il tono complessivo del discorso, il rispetto per il tempio laico della democrazia, l'appello a superare l'approccio divisivo della politica che porta a schematizzazioni riduttive. Dopo Washington la tappa di New York, oggi l'atteso intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove parlerà ovviamente di pace, ambiente e lotta alla povertà, ma anche verosimilmente di difesa della vita, tema questo controverso dentro il Palazzo di Vetro. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro dal viaggio del Papa. Ovviamente vi aggiorneremo nel corso del pomeriggio anche sul discorso del Pontefice alle Nazioni Unite. Nel frattempo, proprio in queste ore, si alza la voce della comunità internazionale contro la condanna per un dissidente saudita, appunto condannato a decapitazione e successiva crocifissione. Aveva 17 anni Ali Mohammed al-Nimr quando è stato arrestato in Arabia Saudita per aver partecipato a una manifestazione contro il regime. 3 anni dopo la sentenza, sarà decapitato e crocefisso. Ogni condanna a morte è inaccettabile, ma l'idea che una condanna a morte venga inflitta per un reato di opinione nei confronti di un minorenne è aberrante. Così Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, che ha aperto una petizione online per convincere il re saudita a revocare la condanna. Sono 58 i paesi nel mondo che applicano la pena di morte, primo fra tutti la Cina, con migliaia di esecuzioni ogni anno, più di tutti gli altri paesi messi insieme. Segue l'Iran, che ha eseguito 800 condanne nei primi 8 mesi del 2015, più del doppio rispetto al 2014. Poi Arabia Saudita e Pakistan, rispettivamente con 133 e 240 pene capitali portate a termine quest'anno. Finché la pena di morte sarà consentita dalle norme internazionali, istituzioni e governi possono fare poco, spiega Nuri. Quello che il mondo può fare è sanzionare da un punto di vista politico, lo si fa ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una risoluzione sulla moratoria, però purtroppo non c'è molto altro da fare se non esecrare e condannare. Difficile dire fino a che punto gli interessi politico-economici tra gli stati possano essere influenzati da un principio. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo ad un'altra questione che riguarda in parte anche il tema dei diritti umani, ossia la condizione dei profughi e dei migranti che stanno cercando di arrivare in Europa. In Croazia nelle ultime 24 ore sono entrate quasi 9.000 persone. Nel centro di prima accoglienza a Opatovac ci sono attualmente poco più di 3.000 persone che vengono trasportate a gruppi con autobus al confine ungherese. Da lì proseguono verso l'Austria. Valentina Furlanetto ha raccolto la testimonianza di Stefano Dallinea della rete Melting Pot, che si trova proprio là. Purtroppo ieri durante la notte è scoppiata anche la pioggia, quindi ci sono moltissime persone che hanno passato la notte in piedi in fila nell'attesa di essere caricati per essere portati al campo. Quante più o meno persone ci saranno? 2.000. Donne e bambini, tanti uomini e anche ragazzi, c'è un po' tutto, ci sono delle famiglie, c'è anche qualcuno che arriva da solo. Siamo stati lì con loro e abbiamo distribuito le coperte termiche e c'erano freddo, cioè c'era gente in ciabatte, gente in maniche corte. Gente che comincia ad avere la febbre, perché qui ieri c'erano 10 gradi. Questa notte è stata, secondo me, molto dura per loro. Ci sono state tensioni, ci sono stati tafferugli, tensioni? Nei giorni scorsi moltissime, la polizia ha comunque spiegato questi tafferugli anche con cariche e spray al peperoncino. Siamo alla politica, ancora col tema delle riforme. Gli emendamenti definiti di merito alla riforma costituzionale sarebbero, secondo fonti del Senato e notizia di ieri sera, non più di 3.000. Fatto sta che nella giornata di ieri è sembrata palesarsi una nuova maggioranza. Daniele Biacchessi. La crisi di Forza Italia, il ruolo sempre più marginale di Silvio Berlusconi nel centrodestra, la fuoriuscita di numerosi esponenti della minoranza del Partito Democratico e la mancanza di un progetto alternativo a sinistra di Renzi favoriscono in queste settimane la nascita di una nuova maggioranza politica che sta già votando in Senato i provvedimenti sulle riforme del governo. Il nucleo su cui si basa questa nuova inedita alleanza si chiama ALA, Alleanza Liberal Popolare Autonomie, il cui leader indiscusso resta Denis Verdini. A Palazzo Madama da pochi giorni può contare di 13 senatori. L'ultima new entry è l'ex forzista Peppe Ruvolo. Nell'ala di Verdini sono recentemente entrati l'ex ministro dell'agricoltura del governo Berlusconi Francesco Saverio Romano e altri 7 onorevoli, tutti provenienti da Forza Italia. Sono Francesco Amoruso, Ignazio Abrignani, Luca D'Alessandro, Monica Faenzi, Giuseppe Galati, Giovanni Mottola, Massimo Parisi. In particolare Francesco Saverio Romano sarà il portavoce del gruppo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il nodo centrale del programma del Premier Renzi, ovvero la revisione di alcune parti essenziali della nostra Costituzione, si poggia oggi sull'asse tra Partito Democratico e ALA, in attesa della sostituzione di metà del nuovo centrodestra di Alfano da maggioranza e governo. Quindi nei fatti è stata costituita una nuova maggioranza parlamentare. Non è detto, naturalmente, che sia anche un viatico per varare un nuovo esecutivo. Questo il punto di Daniele Biacchesi. Appena terminata la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, all'ordine del giorno era atteso un decreto legge con diverse misure, tra queste la sterilizzazione dell'aumento della benzina che altrimenti scatterà da ottobre e la proroga della voluntary disclosure, la procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. Di questo sappiamo già che è stata rinviata questa proroga, perché lo ha riferito il sottosegretario al Tesoro, al Ministero dell'Economia, Enrico Zanetti, dicendo che il provvedimento è sul piatto, ma insomma questa proroga non è ancora scattata. Veniamo ai dati di Istat di oggi su retribuzioni e contratti. Ad agosto in Italia le retribuzioni sono rimaste invariate rispetto a luglio, ma sono aumentate dell'1,2% rispetto all'agosto dello scorso anno. Nei primi 8 mesi del 2015 si registra invece una crescita dell'1,1%. Secondo i dati comunicati oggi dall'Istat, l'incremento tendenziale è dell'1,7% nel settore privato, mentre è nullo nella pubblica amministrazione a causa del blocco dei contratti. I settori con la crescita maggiore sono agricoltura più 4%, energia e petroli più 3% e metalmeccanico più 2,7%. L'Istat fa anche sapere che sono 4,9 milioni i dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale, il 38% del totale. Di questi quasi 3 milioni lavorano nel settore pubblico. Complessivamente l'attesa media per i lavoratori con il contratto scaduto supera i 4 anni, per l'esattezza 56,3 mesi, il triplo rispetto al 2010, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è una persona iscritta nel registro degli indagati per il duplice omicidio dei fidanzati di Pordenone. Si tratterebbe di un commilitone del sottufficiale dell'esercito 29enne che con la compagna 30enne furono trovati morti la sera del 17 marzo scorso. Su questo torneremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Passiamo alla nuova accusa di plagio per Roberto Saviano, che fa discutere. Sistematico plagio, e questa è l'accusa rivolta dal sito americano The Daily Beast a Roberto Saviano. Lo scrittore napoletano avrebbe copiato articoli e voci di Wikipedia per scrivere 000, il suo secondo libro dopo Gomorra, incentrato su cocaina e narcotraffico, uscito in Italia nel 2013, ma soltanto a luglio negli Stati Uniti. In un articolo pubblicato sul Daily Beast dal giornalista Michael Monahan, Saviano non solo ha scritto un libro brutto, ma ha scritto un libro incredibilmente disonesto. 000 è pieno di articoli rubati da giornalisti meno noti, scrive Monahan, che rincara la dose accusando Saviano di aver usato come fonte Wikipedia. E a supporto di questa tesi cita una decina di somiglianze. Dubbi simili erano già stati avanzati dal New York Times, ma l'articolo pubblicato dal Daily Beast entra nei dettagli con esempi concreti. Da parte sua Saviano replica sottolineando come le somiglianze fossero pure coincidenze e aggiunge: quando un libro ha molto successo, quando le storie che veicola iniziano a creare dibattito, per bloccarlo il miglior metodo è gettare discredito sul suo autore. Accuse simili erano già state fatte al primo libro di Saviano, Gomorra, e a giugno una sentenza della Corte di Cassazione si era espressa proprio su Gomorra, evidenziando come sia da ritenersi un'opera originale anche se contiene lo 0,6% di casi di plagio ammessi dallo stesso Saviano. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Siamo allo sport. Jorge Lorenzo è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, 14ª prova su 18 del moto mondiale della MotoGP, che si disputerà domenica sul circuito spagnolo di Alcaniz. Il pilota spagnolo della Yamaha, girando in 1.48 e 249, ha preceduto il connazionale della Honda Marc Marquez e l'italiano e il suo compagno di squadra Valentino Rossi, che al momento resta leader della classifica iridata. Il rugby domani torna in campo l'Italia. Partita da vincere per rimanere in linea di galleggiamento e tentare 8 giorni dopo il colpo della vita contro l'Irlanda. Gli azzurri, ancora senza il capitano Sergio Parisse, cambiano totalmente due cose. Una partita da vincere per rimanere in linea di galleggiamento e tentare 8 giorni dopo il colpo della vita contro l'Irlanda. Gli azzurri, ancora senza il capitano Sergio Parisse, cambiano totalmente due coppie di ruoli in vista del match con il Canada di domani pomeriggio all'Elland Road Stadium di Leeds. Nei centri fuori l'infortunato Masi e Campagnaro, al loro posto Garcia e Benvenuti, entrambi tornati disponibili. In prima linea uno dei settori che hanno sofferto di più nella sconfitta con la Francia, dentro da subito i piloni Rizzo e Cittadini, mentre Aguero e Castrogiovanni andranno in panchina. Saranno seduti accanto a Mauro Bergamasco, che, se entrerà in campo, eguaglierà il record del samoano Brian Lima. Dal 1999 a oggi, 5 partecipazioni alla Coppa del Mondo. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Leeds. Parliamo di musica e cinema adesso. Oggi, in contemporanea mondiale, è disponibile per il download digitale per la programmazione radiofonica Writings on the Wall, il brano interpretato da Sam Smith per la colonna sonora del nuovo 007 Spectre. È la prima volta che questo onore viene dato ad un artista britannico di sesso maschile dal 1965. Il brano è stato scritto dall'artista insieme all'amico produttore e compositore Jimmy Napes, che quest'anno si è aggiudicato il Grammy per la canzone dell'anno Stay With Me, scritta insieme a Sam Smith. Il traffico, poi andremo a parlare di un incidente piuttosto grave avvenuto su una linea ferroviaria, dove un ragazzino ha tentato di passare con la sua bici sotto ad un passaggio a livello ed è stato colpito da un treno. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora riunito il consiglio di amministrazione di Volkswagen per scegliere il nuovo amministratore delegato, favorito Müller, ora alla guida di Porsche. Dopo il discorso di ieri al congresso contro la pena di morte, il Papa è arrivato a New York. Oggi parlerà alle Nazioni Unite. Il governo dovrebbe aver varato, il Consiglio dei Ministri ha appena finito, lo stop all'aumento delle accise sulla benzina. Il duplice omicidio dei fidanzati di Pordenone, dopo 6 mesi c'è una pista, indagato un commilitone della vittima. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, e siamo a parlare di un incidente ferroviario, per così dire, che è avvenuto questa mattina quando un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un treno a Bagnolo Mella e siamo in provincia di Brescia. Abbiamo in linea con noi Umberto Lebruto, che è direttore della direzione produzione di Rete Ferroviaria Italiana. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Allora, la prima domanda che le devo fare è un po' sulla dinamica. Da quel che abbiamo capito, questo ragazzino è passato di fatto sotto le sbarre abbassate del passaggio a livello. Dunque, la dinamica, ovviamente c'è un'inchiesta in corso anche dagli organi di polizia, non è che la sappiamo precisamente, però dalle prime notizie acquisite anche dal macchinista che guidava il treno investitore è andata proprio così. Erano quattro ragazzi che hanno passato il passaggio a livello sotto le sbarre regolarmente chiuse con la bicicletta. L'ultimo ragazzo purtroppo non è riuscito a scansare il treno e quindi è stato investito dal treno. Risulta tra l'altro da alcune indiscrezioni che stanno circolando che il macchinista abbia visto e abbia rallentato, quindi diminuendo l'impatto. Tra l'altro le condizioni che inizialmente sembravano gravi del ragazzino sembra che non siano particolarmente gravi. Ce lo conferma questo? Glielo confermo anch'io, mi hanno dato notizie che il ragazzino fortunatamente non è compromesso la vita, almeno fino a questo momento le notizie sono queste, e questo ci dà un grande sollievo. Il macchinista ovviamente appena vede un ostacolo in mezzo ai binari tira la rapida, in gergo tecnico significa frena con il massimo della frenatura che può fare un treno. È ovvio che il treno però ha bisogno di metri per arrestarsi completamente, quindi anche se la rapida è stata tirata prontamente, purtroppo è stato comunque investito il ragazzino. Senta, più in generale, Lebruto, voi state facendo una campagna insieme ad altri paesi in realtà proprio sul tema dei passaggi a livello che continuano a rappresentare un pericolo. Ci può dare la misura di quanti incidenti avvengono sui passaggi a livello? Beh, gli incidenti sono tanti purtroppo e devo dire nello scenario europeo, nello scenario mondiale ci stiamo muovendo con organi che copilotano la materia della sicurezza. In particolare noi facciamo parte dell'UIC, l'Union Internationale del Cemento e Ferro, e quest'anno, proprio quest'anno ad Istanbul abbiamo partecipato alla 7ª edizione di una campagna internazionale per sensibilizzare le persone a utilizzare bene il codice della strada e gli attraversamenti della strada sulla ferrovia. Normalmente noi vediamo che quasi il 100% degli incidenti è dovuto ad un cattivo, inadeguato comportamento dell'utente della strada, e in particolare negli ultimi anni sta crescendo molto l'incidente dell'utente a piedi o in bicicletta più che quello che guida l'autovettura. Ma come mai, Lebruto? Ve lo siete spiegato? Allora, noi ce lo siamo spiegati e purtroppo abbiamo capito che c'è una scarsa conoscenza del codice della strada, e quindi torniamo lì al comportamento inadeguato, quindi un'educazione civica non adeguata ad affrontare un passaggio a livello. Le regole in gioco sono molto semplici, però evidentemente chi non conosce bene il mondo ferroviario non sa neanche perché quando c'è una barriera abbassata non bisogna oltrepassarla passando al di sotto, perché quando c'è un segnale luminoso che protegge quella barriera e se è luminoso e c'è anche una campanella che suona bisogna fermarsi e aspettare che la campanella si metta a riposo, il segnale si spenga e la barriera sia completamente alta prima di attraversare il passaggio a livello. Purtroppo queste conoscenze vediamo che non sempre sono così evidenti come ci appaiono in questo momento. Senta, Lebruto, un'ultima domanda. La realtà è che la vera soluzione è eliminarli i passaggi a livello e fare dei sottopassaggi. E quando spariranno? Voi avete un'idea? Ne togliete un po' ogni anno? Come funziona? Sì, allora, il tema è molto semplice. Lei ha centrato l'obiettivo. Per eliminare il problema alla fonte bisogna eliminare gli attraversamenti. E si possono eliminare costruendo o dei sottopassaggi ferroviari o dei sovrappassi ferroviari. Lo stiamo facendo da anni, lo stiamo facendo in accordo con le amministrazioni locali, le regioni, le province, i comuni, perché ci siamo dentro tutti, e lo stiamo facendo con grandi sacrifici, perché per realizzare un'opera del genere ci vogliono svariati milioni di euro per ogni attraversamento. Le dico subito che nel biennio 14-15 abbiamo investito circa 100 milioni di euro solo come Rete Ferroviaria Italiana per chiudere circa 200 passaggi a livello. Per dare un altro numero, su una rete di 16.700 chilometri di linea ferroviaria su tutta la rete nazionale, ne abbiamo ancora circa 5.000 di passaggi a livello. Sono tanti, e quindi sono tanti. Però ci stiamo muovendo, devo dire, con grande sforzo da parte di tutti, compreso lo Stato che finanzia queste opere per eliminare questi attraversamenti. Devo dire, ci stiamo muovendo con grande velocità e sono convinto che in breve cercheremo di ridurre almeno quelli critici, più sì. critici, quelli che, dove ci sono più incidenti, cercheremo di eliminarli il prima possibile. La ringrazio, grazie a Umberto Lebruto, che è direttore della direzione produzione di Rete Ferroviaria Italiana. Noi passiamo ad un altro fatto di cronaca, ed è quello che riguarda la morte dei due fidanzati di Pordenone, trovati morti la sera del 17 marzo scorso nella loro auto all'esterno del palazzetto dello sport di Pordenone. Dopo sei mesi una svolta nelle indagini, ne parliamo con Antonio Bacci, che è caporedattore della redazione di Pordenone del Messaggero Veneto. Antonio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, ci sarebbe un indagato dunque? Sì, c'è un indagato, e la svolta che si attendeva dopo sei mesi dal delitto del 17 marzo di fronte al Palasport. È una situazione ancora atipica, perché il quadro non è completo. Si sa che è un commilitone di Trifone che ha 26 anni, e si sa anche che è indagato direttamente per l'omicidio delle due persone, per il porto abusivo dell'arma con cui è stato commesso il duplice delitto. Un'arma in particolare, poi risalente al periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, per cui un'arma molto datata, no? su cui utilizzo ci sarà da sapere ancora qualcosa. Antonio, come è avvenuta la svolta? Come si è arrivati a questa persona? Siete già riusciti a capirlo? Ecco, qui gli inquirenti fanno molto catenaccio al momento, perché tutto è partito nell'ultima settimana dal ritrovamento nel laghetto del parco di San Valentino, che è il polmone verde di Pordenone, a 300 metri dal luogo del delitto, di parti della pistola che avrebbe sparato. Successivamente poi RIS ha dato conferma della compatibilità del caricatore ritrovato con quello dell'arma del delitto. Come sono arrivati al laghetto e come sono arrivati da lì al passo successivo all'indagato, loro negano, gli investigatori, che ci sia una gola profonda, parlano di indagini. È vero che attraverso eventuali intercettazioni, riscontri, esame di mail, telefonate, la svolta può essere arrivata anche da lì, però c'è la convinzione forte in queste ore che ci sia una sorta di regia che ha impresso un'accelerazione importante in questa indagine, e quindi che ci sia qualcuno che in qualche modo ha parlato, conosce i fatti e ha indirizzato gli investigatori su questa pista. Ti ringrazio, grazie Antonio Bacci, caporedattore della redazione di Pordenone del Messaggero Veneto, e naturalmente ti auguro buon lavoro in queste ore che saranno piuttosto intense nella costruzione delle vostre pagine. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati tra un attimo. Tra l'altro una giornata interessante, perché stanno riprendendo i titoli dell'auto e quindi stanno andando meglio anche i mercati complessivamente. Proprio a proposito di titoli auto, subito dopo ritorneremo a parlare della vicenda Volkswagen. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Volkswagen sta scegliendo in questi minuti il suo nuovo amministratore delegato, è favorito Müller, che ora è alla guida di Porsche Autobild, e chiarisce le notizie su BMW. Non ci sono prove di manipolazione delle emissioni. Oggi il governo dovrebbe aver varato, ma non abbiamo ancora dettagli, la riunione del Consiglio dei Ministri è finita, lo stop all'aumento delle accise sulla benzina, che altrimenti sarebbe scattata il 1 ottobre. Il duplice omicidio dei fidanzati di Pordenone, dopo sei mesi c'è una pista, indagato un commilitone della vittima, come avete sentito forse alla base della svolta, un informatore. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono Simone Spezia. L'ultima notizia che riguarda la vicenda Volkswagen è che si riunirà il 6 ottobre a Bruxelles il comitato tecnico composto dalle autorità di omologazione nazionali, che quindi hanno deciso di fare un punto, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. In Europa si adottano degli standard unici e però ci sono 28 autorità diverse che controllano, e quindi anche il lecito sospetto che qualche autorità chiuda un occhio sui propri produttori nazionali. Enrico De Vita, ingegnere, giornalista, ex caporedattore di Quattro Ruote, oggi scrive per automoto.it, benvenuto e buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Vorremmo puntare l'attenzione, lo abbiamo fatto parzialmente già prima, sul tema dei test per l'omologazione in generale e vorremmo capire da lei in quali condizioni avvengono, perché da quel che abbiamo capito avvengono in condizioni ben più che ottimali, insomma. Diciamo che le case possono scegliere che vettura utilizzare, quali optional montare sulla vettura, come scollegare dal motore tutto ciò che assorbe potenza, come ridurre al minimo la potenza necessaria per fare il test, tanto per fare un esempio, l'alternatore viene scollegato, se la macchina ha la pompa dell'acqua che può essere staccata, viene staccata, quindi ci si mette in condizioni ideali, non sono trucchi violenti, sono azioni non vietate dal regolamento. Tra le azioni non vietate, la più eticamente scorretta, della quale nessuno ha mai parlato, ma che avevo scoperto a quattro ruote nel 93, è che la famosa sonda lambda, quella che mantiene la carburazione chimicamente perfetta, viene staccata, smette di funzionare quando si superano i 120 all'ora. Questo perché? Perché le prove che vengono fatte in laboratorio per misurare consumo e inquinamento si fermano a 120 all'ora. Quindi quello che avviene dopo, nessuno lo dice, ma è il motore che si prende la benzina di cui ha bisogno per raffreddare le valvole, per sviluppare tanti cavalli, morale, l'inquinamento non viene più misurato e non conta più nulla al di sopra dei 120. Questo non lo chiamiamo trucco, però è eticamente una delle cose più scorrette che viene fatta dal 93. Sì, tra l'altro ho letto in un'intervista che lei fa oggi con il Corriere della Sera, addirittura c'è chi porta le macchine in laboratori in alto. Come parte dei vari laboratori europei che possono essere scelte per fare la prova di omologazione, e ovviamente ciascuno sceglie il laboratorio che gli conviene di più. In Spagna ce n'è uno ad alta quota e che dà dei vantaggi sia aerodinamici sia al motore, per cui si possono usare degli oli molto fluidi, tutto ciò che poi in serie non è vero che venga usato, ma non è contro i regolamenti, è solo che i regolamenti europei non vietano espressamente questo, mentre in America Volkswagen è andato a sbattere contro una firma che ha messo su un regolamento che chiedeva alla casa di non modificare il funzionamento dell'accessorio, degli accessori per l'inquinamento durante poi la marcia su strada normale. Ha firmato e poi in pratica ha insegnato la centralina a spegnere questo SCR, questo catalizzatore riducente che doveva ridurre gli ossidi di azoto. Ancora diciamo, se posso, sì, prego, prego, che le omologazioni europee sono differenti da quelle americane, perché in Europa ogni casa omologa un esemplare e poi vende gli altri esemplari uguali a quel modello dicendo che sono conformi, cioè si fa una sola prova su un solo esemplare che la casa ovviamente addestra e sceglie la macchina migliore che ha, il motore migliore che ha, i pneumatici migliori che ha, dopodiché firma in un pezzo di carta la dichiarazione di conformità, che vuol dire tutti quelli che produrrò sono uguali teoricamente al primo prodotto. Ecco perché in Italia i controlli che vengono fatti poi sul mercato valgono zero, acqua calda. Nessuno riuscirà mai a dire che sono a dimostrare che sono diversi, perché per il solo fatto di aver percorso 10-20 km di strada o di aver 6 mesi di vita saranno diversi, quindi nessuna casa accetterà mai una contestazione su queste diversità rispetto al veicolo omologato. In America è possibile. È un problema questo. Ricordiamo innanzitutto, chiariamo ancora bene una cosa. Quando parliamo del caso Volkswagen parliamo di una vera e propria truffa fatta tramite il software. In questi casi parliamo di accorgimenti che rientrano nei buchi dei regolamenti, che possiamo considerare, come dice lei, eticamente non particolarmente positivi, e però non parliamo di truffa. Questo è un punto che evidentemente va ricordato. Dall'altra parte lei dice una cosa, lei dice guardate che questa roba viene fatta anche con le ibride, cioè non è che le ibride si salvano da questo. Il Corriere ha usato il titolo barare, non è mio, le ibride non barano, utilizzano una parte di regolamento che è questa sì scorretta, che consente a tutto ciò che è elettrico di non venir conteggiato all'inizio della prova. Per cui se una ibrida riesce a fare metà del ciclo di prova, che è lungo 11 km, utilizzando la carica della batteria, alla fine il consumo che conterà sarà quello di benzina che serve per percorrere metà del ciclo e quindi i suoi consumi saranno dimezzati rispetto a quelli reali. Ma anche qua, anche qua, tra l'altro, in condizioni ideali sostanzialmente. Beh, il ciclo di per sé è ideale per le auto ibride, le auto che hanno lo start-stop, consente loro delle cose straordinarie. Per esempio, siccome il ciclo prevede un sacco di fasi di sosta ai semafori, tutti i motori o le vetture che spengono il motore ai semafori ne ricaveranno vantaggio, mentre tutti gli altri dovranno girare al minimo. Così come chi recupera energia in fase di rilascio dai 50 fino a zero, fino a semaforo, utilizzerà questa energia per ripartire dopo, mentre se viaggia con quella macchina ibrida da Milano a Roma non avrà nessuno di questi vantaggi. Ecco perché le riviste che hanno provato le ibride hanno sorpreso nei loro dati totalmente diversi consumi, doppi rispetto a quelli dichiarati. La ringrazio, grazie ad Enrico De Vita, ingegnere, giornalista, adesso scrive per automoto.it, grazie per la chiarezza e per come ci ha raccontato come funzionano questi test di omologazione. Il traffico.